la mia non è una domanda, ma sono stato tirato in causa e mi prendo 3 minuti, 5. Allora, la prima cosa è, sì, sono stato a quel convegno un giorno di settimana nel 2020 e ho provato una grande rabbia, come molti altri come me, perché era, non so se ne avete notizie, insomma, si disegnavano scenari impressionanti, soluzioni di continuità culturale epistemologiche a fronte di una scuola che sta completamente disinvestendo e quindi non si poteva provare che rabbia. Io proporrei di fare un convegno un giorno di scuola nel 2010 e di ragionare su quello che ci aspetta realmente, di farci magari anche qualche video attraverso Mobulus, perché così riusciamo a bucare i media, eccetera, eccetera. Devo dire che su quel convegno ho mandato un durissimo commento al coordinatore Roberto Bottani e ho avuto la sorpresa di vedere pubblicato questo mio commento sul suo spazio Facebook, e vedete che così ho perso il controllo delle mie azioni, l'avevo perso quasi subito. Grazie a questo fatto però sono diventato amico di Paolo Ferri, sempre su Facebook. Paolo Ferri è colui che ha scritto, è anche disponibile in via scribd.com, una delle tante cose che ci sono in questo momento, dicevo, è il coordinatore di un volume interessante che si chiama La conoscenza come bene comune, che vi cito, vi invito a leggere, perché fa un ragionamento interessante sul fatto che una serie di questioni stanno ponendo il problema delle recinzioni digitali, cioè del fatto che la rete in questo momento in realtà è in preda a un processo di appropriazione delle informazioni e delle conoscenze di base da parte di alcuni soggetti, eccetera. Non mi sto ad annoiare. Voglio dire, perché dico queste cose? Perché secondo me dobbiamo stare attenti a cercare di avere, a smettere di cercare di avere una posizione sola. Non è possibile avere una posizione sola su tutte queste problematiche. Ho apprezzato molto Leonora Panto quando ha detto noi non vi daremo delle ricette, non vi daremo dei manuali, perché non è così, non può essere così. E gli usi degli strumenti sono profondamente diversi. Possono essere profondamente diversi, gli strumenti di per sé non significano assolutamente nulla. Non significano assolutamente nulla. Stiamo anche attenti a non cadere preda del marketing lessicale. Cioè dell'idea che, questo funziona molto nel marketing, inventarsi delle formule come web 2.0 e di conseguenza il web 1.0. È molto funzionale dal punto di vista del marketing. Marketing perché io ti vendo l'ultimo prodotto. La stessa formulazione digital nativo è una formulazione interessante perché di nuovo buca lo schermo, però come dire, non è qualcosa su cui riflettere, è semplicemente una formulazione visionaria che per un po' è interessante, poi è destinata a essere superata da un'altra. Io ne propongo una che, come dire, va bene per i miei allievi, poi vi cito qualche esempio: il digital naif, cioè quelli che fanno un uso immaturo delle strumentazioni che hanno di fronte. E proverei di riflettere su questo, perché il decalogo che Zucchini, Pentagono, non so se fosse, che numero fosse, che Zucchini ha fatto vedere, io personalmente lo seguo. Stamattina ho dato ai miei allievi questo compito: andate a vedere su YouTube se ci sono delle documentazioni interessanti a proposito del terremoto. Stiamo facendo adesso una roba di, sul test espositivo, la documentazione, eccetera, eccetera. Sono convinto che non lo faranno. Non lo faranno perché è impegnativo. Perché non è un uso consumistico di YouTube, è un uso impegnativo che implica una riflessione, un confronto, l'analisi, e questo sono abbastanza convinto che non lo faranno, ce lo faranno alcuni, quelli che avrebbero fatto lo stesso compito sulla carta, e quegli altri non lo faranno, quelli che scrivono media con la I. Mi è successo stamattina, mi ha fatto un elenco delle possibili fonti di documentazione, media scritto tranquillamente con la I. Non c'è niente di male a scrivere media con la I, basta sapere che lo stai facendo in forma ironica. Allora, mi spaventano sempre queste presentazioni di studenti particolarmente consapevoli. Gli studenti che abbiamo di fronte a noi non sono mediamente in quella parte della curva gaussiana, eh? Quelli sono i critici, quelli sono quelli che la cittadinanza digitale la praticano già. Ne abbiamo a che fare con gli altri, in stragrande maggioranza. Allora, non prendiamoci in giro, avete pazienza. Cioè, queste sono cose molto interessanti, ma che al momento non sono estensibili alla massa degli studenti. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che le sperimentazioni che facciamo sono destinate a restare autoreferenti, perché non producono nulla di riproducibile. E ritorno all'inizio, un giorno di scuola nel 2010, cioè la scuola del disinvestimento.